Amen, lui è risorto ed è vivo. Possiamo accomodarci, vogliamo leggere dalla parola di Dio, Marco 16, quello che c'è scritto della risurrezione. Leggo qualche verso prima, anche se poi la proiezione ci mostrerà i versi di riflessione principale. C'è scritto dal verso 1 di Marco 16 che, passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salomè, comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole e dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata già rotolata ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito in una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso, egli è risuscitato. Non è qui, ecco il luogo dove l'avevano messo, ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Ascoltate ora quello che dice. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali, ascoltate, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, uditi che egli veniva ed era stato visto da lei, essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. È interessante vedere come in questo verso l'ultimissima parola è che i discepoli non lo credettero al maschile, quando chi è che riporta l'annuncio è una donna, e quindi sarebbe stato più giusto dire non la credettero. Ma invece noi leggiamo che non lo credettero perché non hanno creduto in Gesù, in quello che lui aveva già detto, in quello che lui aveva già presentato ai suoi discepoli, ovvero la sua resurrezione. E quindi Maria non fa altro che essere una messaggera di Dio per riportare qualcosa che già Gesù aveva annunciato. E quindi nello scadere, nel non credere a Maria, i discepoli scadono nel fare un errore più grande: non credere a Gesù Cristo stesso. Quando noi annunciamo l'Evangelo di Cristo e il fatto che Gesù è vivente oggi, quando le persone non credono, non è che non stanno credendo in noi, stanno scegliendo di non credere in Cristo Gesù. E questa è una colpa ben maggiore, perché un conto è non credere alla voce di un uomo, un altro conto è non credere alla voce di Dio. E per questo ci sarà condanna per coloro che non credono. Però l'istantanea che noi cogliamo qui in questo verso, mantienilo proiettato, è un'istantanea dove noi troviamo dei discepoli che, vedete, l'ho messo in grassetto, facevano cordoglio e piangevano. Questa istantanea ci presenta un luogo di cordoglio e di pianto, un luogo di sofferenza, tristezza, di dolore, un luogo dove i discepoli si stanno nascondendo, lo leggiamo in altri Vangeli, per paura dei giudei, perché ora il loro maestro è stato ammazzato, il loro maestro è stato crocifisso, e loro si nascondono in questa stanza. Non solo fanno cordoglio e piangono perché hanno perso il loro maestro, il loro signore, coloro nel quale avevano riposto speranza per la salvezza di Israele, ma loro sono chiusi in questa stanza per la paura della loro vita stessa, che ora è messa in gioco, perché se hanno ucciso il maestro uccideranno i discepoli. E quindi loro sono in questa stanza buia, buia intesa come un luogo di tenebre, di dolore, di cordoglio, di pianto, di nascondiglio, di paura, di agitazione, sentimenti di minaccia di morte. E tutto questo accade mentre Gesù è già risorto. Questa è la cosa incredibile, perché noi abbiamo da una parte una stanza dove c'è un gruppo di cristiani, di discepoli, che piange e si lamenta, e dall'altra abbiamo invece una tomba che è vuota, una tomba nella quale Gesù non è più presente, perché lui ha fatto esattamente quello che ha detto di fare, risorgere il terzo giorno. E io credo che questa istantanea è una bellissima immagine che ci rappresenta bene non solo quello che è accaduto 2000 anni fa, ma quello che accade ancora oggi, purtroppo. Perché da una parte è sempre vero che il sepolcro è vuoto, ed è talmente vuoto che noi non sappiamo neanche dove sia questo sepolcro, perché non ha più alcun significato, in quanto in quel sepolcro Gesù c'è stato solo per 3 giorni e poi è risorto e l'ha lasciato. Tu puoi andare a visitare la tomba di Maometto, tu puoi andare a visitare la tomba di Buddha, ma non puoi andare a visitare la tomba di Gesù, perché Cristo Gesù è risorto. Alleluia. E dall'altra parte però, allora come oggi, ci sono persone che si dicono cristiane, si dicono credenti, ma fanno lutto e sono in cordoglio. Perché? Perché quel Gesù che è vivo è una bella storia, è una bella commemorazione, ma non è l'esperienza di vita. Vedete quello che accade nella via di Emmaus. Voglio leggervi questo altro passaggio della Bibbia, perché è così importante cogliere il rischio di mancare nell'avere una rivelazione della resurrezione di Cristo Gesù. È un rischio grande. Non basta sapere che lui è risorto, devi avere la rivelazione della sua resurrezione. Non basta conoscere e leggere quello che la parola di Dio dice e quello che è accaduto 2000 anni fa, devi avere rivelazione che Gesù effettivamente è risorto e non è più in quella tomba, ma è vivente oggi. E guardate cosa accade in questa via. Due dei discepoli, non dei 12, ma della restante parte dei discepoli, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete tra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi alla presenza del risorto. Tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse loro: quali? Essi gli rispose: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Sentite il peso di queste parole, la sofferenza di questi discepoli, la tristezza, il cordoglio, il pianto, lo smarrimento, perché aggiungono e dicono: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. E per i giudei il terzo giorno della morte di una persona era il giorno che sanciva, stabiliva che non c'era più speranza. Perché il terzo giorno per i giudei era il giorno nel quale l'anima definitivamente lasciava il corpo. Quindi questi giudei smarriti, rattristiti e in cordoglio, che cosa fanno? Dicono: noi speravamo che fosse lui che salvasse Israele, noi speravamo che lui si dimostrasse essere quello che diceva di essere, noi speravamo in lui, ma è morto e sono passati 3 giorni e non c'è più speranza. E il Salvatore era a fianco a loro. Quel Gesù stava parlando con loro proprio in quel momento. Quanto ciechi si può essere? Quanti ciechi si può essere dal credere qualcosa e poi smarrirsi completamente davanti a quello che può essere il lutto, la tristezza di circostanze? di circostanze. Solo tu non sai quello che è accaduto in questi giorni, perché questi giorni sono circostanze funeste, sono circostanze pesanti, molto più pesanti degli interi 3 anni vissuti di promesse e di parole profetiche, dove Gesù già aveva stabilito quello che sarebbe accaduto. Le circostanze della nostra vita, fratelli e sorelle, oggi ci possono far camminare passeggiando con Cristo, non cogliendo la salvezza che c'è in Lui, la speranza che c'è in Lui, perché sebbene Lui è vivente, noi lo trattiamo da morto. Questo è il rischio per ogni cristiano. E non dico che tu sei venuto qui in commemorazione di un Cristo che non vedi vivo, però mi chiedo, nelle tue circostanze di vita, in quello che stai vivendo, magari proprio in questa stagione, Gesù è vivo. E credi che Lui è vivo da ascoltare ogni tua preghiera. Perché vedete, se noi abbiamo rivelazione della sua resurrezione e crediamo che Lui è effettivamente vivo, è inutile anche che io ve lo dica, che le nostre preghiere cambiano. È inutile anche che io vi dica che noi preghiamo. Perché a volte le nostre preghiere e le nostre bocche sono impedite da un'incredulità che non riusciamo ad ammettere e a riconoscere, ma che c'è, e che non ci porta a pregare, perché in realtà non crediamo che la preghiera che facciamo possa essere ascoltata e esaudita. E questa mancanza di fede, ancora presente in noi oggi, che viene come quella stanza buia e tenebrosa, nelle circostanze di vita, ci può far vivere da cristiani che nel giorno della resurrezione continuano a piangere e a fare cordoglio. Quindi la mia domanda a te è: hai piena consapevolezza e rivelazione della sua resurrezione? Perché io ho una buona notizia per te: Gesù è più vivo che mai oggi. Amen. Lui è presente, Lui è vivente, Lui ascolta, Lui vede, Lui agisce, Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui è potente da guarire, Lui è potente da intervenire, Lui è potente da cambiare il lutto in danza, Lui è il vivente che cambia la morte in vita. Ma la fede è ciò che Lui richiede, ed è per questo che sta al gioco di questi due discepoli, e discorre con loro e fa finta di non sapere nulla. Vuole sentire, vuole ascoltare, vuole capire, e Lui ascolta, sente, capisce quello che vivi, ma a un certo punto anche ti riprende. Quando Gesù appare in quella stanza, Lui riprende i discepoli perché non hanno creduto in Lui. E non hanno creduto in Lui nell'annuncio di Maria Maddalena, non hanno creduto in Lui nell'annuncio degli altri discepoli che l'hanno visto apparire, non hanno creduto in Lui soprattutto e principalmente perché Lui aveva detto che sarebbe risorto, e infatti era e risorto. La nostra rivelazione della resurrezione determina come lo cerchiamo. Se sappiamo che Gesù è vivo, allora la nostra ricerca sua prende tutta un'altra forma nelle circostanze avverse della nostra vita. E non lo offendiamo con la nostra mancanza di fede, ma crediamo in Lui. Sapete che a volte possiamo offendere Dio per come ci rivolgiamo a Lui. Ora, Lui è misericordioso, Lui è buono, Lui è pieno di grazia, e Lui accetta ogni tipo di nostra preghiera, anche quando andiamo da Lui e con parole pesanti lo giudichiamo di colpe che non ha, o ci lamentiamo perché non vediamo il suo intervento. Mercoledì abbiamo parlato di questo nell'appuntamento che abbiamo avuto il mercoledì in famiglia. Abbiamo parlato di quanto sia importante rivolgere anche il nostro peggiore lamento a Cristo, perché Lui ama ascoltarci. E non c'è cosa peggiore che rimanere in silenzio e distanti da Lui. Meglio andare da Lui anche con parole che dimostrano tutta la nostra mancanza di fede. Però noi lo offendiamo quando non ci rivolgiamo a Lui e non è Lui il primo soccorso nelle nostre circostanze. lo offendiamo nel momento in cui noi, nel vivere le circostanze avverse della nostra vita, non riconosciamo Lui potente e in grado di cambiare il lutto in danza. Lo offendiamo quando le nostre preghiere sono lamentele e il nostro parlare tra di noi è un lamentarci continuo che ammazza, demolisce la fede. Il linguaggio di un popolo che crede nel Cristo vivente è un linguaggio positivo, ricco di fede, speranzoso, che mette Lui al centro. Quando noi abbiamo rivelazione della sua resurrezione, il nostro matrimonio non è più fra due persone, ma è fra tre. E c'è Cristo in mezzo nelle circostanze avverse, e c'è Cristo in mezzo nelle celebrazioni che viviamo, nella gioia che viviamo, e c'è Cristo in mezzo in ogni cosa, nel nostro fare da genitori, c'è Cristo in mezzo nel nostro vivere il lavoro che viviamo, la pesantezza di giornate difficili. Quando hai rivelazione del Cristo vivente, non puoi fare a meno che andare da Lui, perché sai che è vivo ed è presente. E la religione è qualcosa che ci può catturare, e venire qui nell'incontro domenicale di Pasqua può diventare una commemorazione piuttosto che un festeggiamento. E la commemorazione che cos'è? È una cerimonia per ricordare qualcosa o qualcuno che ha fatto qualcosa di importante, no? Ma noi non commemoriamo Cristo. Noi lo festeggiamo perché Lui è vivente. E questo incontro non è una commemorazione. In tempo dove ci sono così tanti rituali vissuti nel mondo cristiano, noi, Chiesa Pieno Vangelo, noi evangelici, noi cristiani nati di nuovo, non abbiamo motivo di commemorare, abbiamo solo motivo di festeggiare un festeggiato presente e vivo che è in mezzo alla festa e che noi onoriamo perché è presente ed è vivo. Amen. Alleluia. Noi siamo una Chiesa che crede nel Cristo vivente, e non lo crede solamente, lo sperimenta. E per sperimentarlo abbiamo bisogno di fede, ed è per questo che le mie parole a volte si fanno di riprensione, perché vediamo che anche Gesù, quando vuole alimentare fede nei discepoli, li riprende. E così nella tempesta, e così nelle situazioni dove si aspetta che i discepoli facciano qualcosa, motivati e spinti dalla fede, li riprende, perché la riprensione fatta da un padre buono e amorevole è uno scuotimento che ci porta a lasciare, abbandonare il dubbio, l'incertezza e le bugie del maligno, ma a credere, afferrare quel Dio che è vivo e sperare in Lui, non nel senso di darci un'occasione in Lui, ma credere fermamente che Lui è l'unica vera ancora di salvezza e speranza per la nostra vita. Amen. Gesù è vivo e noi crediamo in Lui, ed è per questo che cantiamo, e quando cantiamo, cantiamo a Lui presente in mezzo a noi. Gesù è vivo, e quando preghiamo, noi crediamo che Lui ascolta le nostre preghiere e Lui è potente da operare ed agire. Oh, che il nostro dubbio, la nostra incertezza siano imperdonate da Dio questa mattina. Amen. Io mi ravvedo per ogni mia preghiera fatta religiosa. Io chiedo perdono a Dio per ogni cosa che dico a volte dove il mio cuore è sconnesso da una fede viva. Io chiedo perdono del mio dubbio, della mia incertezza, e voglio fede. Quanti vogliono fede come me? Alleluia, siamo qui perché crediamo e vogliamo crescere nella fede. E la fede Lui l'alimenta non solo riprendendola, ma mettendoci anche in circostanze che richiedono fede. Non vivere la sciagura delle situazioni che affronti, vivi l'opportunità nelle situazioni avverse della tua vita, perché è l'occasione che Dio ti sta dando per sperimentarlo vivo e presente, e per poi portare una testimonianza ad altri del Dio vivente che ha esaudito, che è intervenuto e ha agito. La rivelazione della sua resurrezione determina come lo cerchiamo, ma determina anche dove lo cerchiamo. Leggete con me quello che c'è scritto in Luca 24. Luca riporta, un po' ho preso tutti i racconti di tutti i Vangeli, tranne quello di Giovanni, però è interessante, in Luca noi leggiamo che mentre se ne stavano perplesse, di questo fatto. Di che fatto era? Ve lo leggo prima. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù, quindi erano perplesse del fatto che la pietra fosse rimossa, perché era molto grande, e nell'entrare che non ci fosse il corpo. E mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: ascoltate queste parole. Io credo che queste parole fanno eco nei secoli e nei millenni, arrivano a noi oggi con la stessa forza. È l'annuncio degli angeli che continua a dire al popolo di Dio, ai figli di Dio, ai discepoli: perché cercate il vivente tra i morti? Perché cercate il vivente tra i morti? La tua rivelazione di Cristo risorto cambierà dove lo cerchi. Dove stai cercando Cristo Gesù? Dove lo stai cercando? Nella storia di altri, dove lo stai cercando? Nel tuo passato? Sapete, prima che cominciassimo questa riunione, ero ancora lì che pensavo alla preparazione del messaggio, alle cose che il Signore mi aveva messo nel cuore di comunicarvi. E ho chiesto proprio ai ragazzi del team Lode, del team Power, e ho detto: ragazzi, come possiamo passare da fare una commemorazione a vivere un festeggiamento? Cioè, nella pratica, mi potete dire, mi potete dare una mano per non fare l'errore questa mattina di riunirci come chiesa e fare una commemorazione piuttosto che un festeggiamento? E sono venute fuori bellissime risposte, belle, bellissime, che parlavano dell'importanza di sentire e avere una comprensione, una rivelazione del Cristo vivente nel nostro mezzo ora. C'erano risposte che parlavano della memoria e del ringraziamento, di ringraziare come Gesù ha agito ieri perché è lo stesso che agisce oggi, agirà domani. Ma una delle risposte più belle che ho sentito è proprio che se noi vogliamo afferrare pienamente la rivelazione del Cristo risorto e passare dal fare una commemorazione a vivere invece in un festeggiamento dove il festeggiato è presente, allora noi dobbiamo proiettarci verso il nostro futuro, verso le cose che ci stanno davanti, verso le promesse che Lui ha già fatto, verso le cose che Lui vuole realizzare nella nostra vita, perché proiettarci in avanti, credendo che Lui intervenga, richiede fede. E richiede per forza di cose un Cristo che sia vivente. E mi è piaciuta come risposta, perché è esattamente quello che il Signore vuole che noi facciamo. Lui non vuole che noi lo andiamo a cercare nella tomba che è vuota. Lui non vuole che noi lo andiamo a cercare nelle storie passate solamente, ma vuole che noi lo cerchiamo nella prospettiva futura. Perché se lo cerchiamo nella prospettiva futura, allora saremo costretti a vivere fede in un Cristo vivente. Che cosa ti aspetti da Gesù? In questo tempo della tua vita, che cosa ti aspetti che Lui faccia? Mi sto rivolgendo ai giovani che hanno una vita davanti, mi sto rivolgendo alle persone di mezza età che hanno mezza vita davanti. Ma mi sto rivolgendo anche agli anziani, per quello che rimane davanti della vita terrena. Qualsiasi sia la stagione della tua vita, qualsiasi sia l'età, se tu sei vivo oggi e sei qui che respiri, il Signore ha un piano che vuole compiere. E c'è un'aspettativa che il Signore vuole che noi abbiamo del nostro futuro, un'aspettativa che richiederà fede. Che cosa si aspetta ancora Dio da te? Che cosa si aspetta ancora Dio da me? E che cosa noi ci aspettiamo ancora da Lui? Beh, per tutta la Chiesa è vero che noi stiamo aspettando il suo ritorno. Sappiamo che è risorto e la sicurezza e la certezza della sua resurrezione ci fa credere che tutto ciò che Lui ha promesso, Lui adempirà. compreso e soprattutto il suo ritorno. Lui sta tornando, Chiesa. Lui sta tornando per me, per te. C'è questo passaggio nella Bibbia che dice: quando il Signore tornerà, troverà fede. Troverà un popolo che ha fede, che è in movimento, che è in azione, che guarda la prossima tappa. Troverà un popolo morto, spento, che vive di commemorazioni e di cose passate. Il Signore ha un piano, un proposito per me e per te. Lui ha mesi davanti a noi che Lui ha già stabilito, nei quali vuole farci credere, proprio attraverso quelle situazioni avverse e quelle difficoltà, proprio nel pianto, nel cordoglio, in quella stanza, è lì che il Signore dice: credi in me nella tomba vuota, credi in me e cambio tutto, credi in me e io farò un miracolo, e credi in me e io farò la storia con te. Qualche settimana fa mi sono ritrovato a predicare su il Dio che non ha limiti e che va oltre i nostri limiti e si vuole servire di noi con tutti i nostri limiti per dimostrare quanto Lui è illimitato in noi. Cosa hai davanti? Che sfida hai davanti? Vivi paura? Vivi ansia? Vivi smarrimento? Vivi pianto, dolore? Beh, ti puoi immedesimare in questi discepoli. E per te c'è l'incoraggiamento di un Gesù che non smette di credere in te. Di un Gesù che risorge e non dice: ma questi stanno piangendo, non hanno capito niente, fanno cordoglio, fammene andare a cercare altri. Un Gesù che è presente, che cammina e passeggia con due increduli che hanno perso speranza e non dice: fammi cambiare strada, fammi cercare qualcun altro. Noi possiamo riporre la speranza in un Gesù che è pieno di grazia ed è pieno di pazienza con noi. E Lui viene e passeggia con noi e ci ascolta nella nostra incredulità. Lui viene e interviene in quel luogo di cordoglio, di lutto e di pianto e non giudica il tuo smarrimento, ma vuole essere una risposta. Lui vuole essere la tua risposta oggi. Lui vuole essere colui che interviene quale Dio vivente che è e vuole essere considerato presente nella tua vita. È potente da poter agire nelle tue circostanze. Concludo con la storia che tutti conosciamo, Gesù che era presente nella barca e che dormiva. E i discepoli che nella tempesta e vedendo l'acqua che riempiva la barca disperavano sempre di più. Gesù era presente in quella barca e dormiva. E i discepoli erano sempre più disperati perché vedevano la tempesta. Eppure Gesù era nella barca. È stato sufficiente svegliarlo. E sapete, Gesù a volte vuole essere svegliato, non che Lui stia dormendo, ma vuole che noi consideriamo che Lui c'è nella barca, che è Lui la risposta. Che non è la paura la risposta, che non è la disperazione la risposta, che non è il lamento la risposta, ma è quel Gesù che è lì e che attende che tu vada da Lui, che interpelli Lui e che chiedi il suo intervento. E se lo fai, Lui interverrà. Quanti possono testimoniare questo? Forse non alla prima scossa, e Lui fingerà ancora di dormire, ma alla seconda o alla terza. E più Lui rimarrà dormiente, più lo sentirai distante, più Lui sta testando la tua fede, ti sta incoraggiando a credere e a pregare con più insistenza, non perché Lui è sordo, non perché Lui dorme e certamente non perché Lui è rimasto morto, ma perché vuole che tu cresca nella fede e che tu veda Lui e Lui solo come risposta e non ti stanchi di cercarlo, e non ti stanchi di richiamare la sua attenzione, non ti stanchi di credere nel suo intervento, perché lui rimane con te e lui sceglie te. Però sta a te scegliere lui e rimanere con lui. E allora stamattina tu puoi scegliere e dire: io voglio ricorrere al Gesù che è vivo nella mia barca, perché io credo che lui interviene e interverrà. Amen. Amen. C'è speranza per te. Lo dico con le lacrime agli occhi, pensando a situazioni nel nostro mezzo, a smarrimenti nel nostro mezzo. E ti riprendo questa mattina con tanto amore, e ti riprendo e ti dico: credi, credi, credi ora, questo è il momento di credere, proprio ora che ti senti smarrito, credi, credi ora, fallo ora, Gesù è vivo, amen. Ci vogliamo alzare, pregare, alleluia. Oh, lui è presente qui, lo Spirito Santo in mezzo a noi. Alleluia, grazie Gesù. Alleluia. Tu conosci chi è smarrito, Gesù. Chi è in lacrime, chi è disperato, Padre, chi è nella sofferenza, chi ti vede distante, chi ti vede lontano, chi ti vede solo indietro nel passato. Signore, tu conosci dove ci troviamo e con amore. Con amore ci porti a credere in te. Grazie per la fede che susciti nel nostro mezzo, questa mattina, proprio in questo momento. E io prego, Padre, che la fede che tu alimenti in noi possa portarci all'azione, all'azione prima di opposizione nei confronti del nemico, delle sue bugie, dell'incredulità alla quale lui ci porta. Un'azione che ci porta ad allontanarci dal vedere solo le situazioni e le circostanze senza te al centro di esse. Io prego in questo momento affinché tu possa portarci a piena fede, a quella fede che ci porta all'azione anche di svegliarti, di interpellarti, di chiedere a te di intervenire, perché lo vuoi fare. E mentre continuiamo a essere in preghiera, in adorazione, io voglio invitare tutte le persone che questa mattina vogliono interpellare Gesù. Non lo so per quale circostanza, non lo so per quale situazione, o magari non c'è neanche una circostanza o una situazione che ti porta a venire qui avanti, ma semplicemente un passo che ti spinge a venire qui avanti per dire: io voglio riprendere la fede o crescere nella fede nel Cristo vivente che vuole intervenire, agire e operare nella mia vita. Quindi vieni ora qui avanti, vogliamo pregare per tutte le persone che questa mattina vogliono fare questo passo. Forza, venite, venite, venite, sì, vieni qui avanti, avanti, avanti. C'è ancora gente che deve venire, venite senza timore. Fate tutti un passo più in avanti, facciamo spazio per chi ancora deve venire. Ci diamo tempo, chiudiamo gli nostri occhi, perché nell'aprire forse stiamo scrutando proprio la situazione, valutando se è il caso di venire o il caso di non venire. Ma non fare questo, tieni gli occhi chiusi, e se sai che devi venire, vieni, vieni ora, perché il Signore vuole intervenire, vuole farlo oggi, vuole farti crescere nel prendere una posizione di fede e nel dichiarare il Gesù vivente nelle tue circostanze e nella tua vita. Forza, c'è ancora qualcuno che deve venire, fallo ora. Fallo ora, fallo subito. Forza, correte qui avanti, preghiamo insieme, intercediamo al Dio che è presente e che interviene. Alleluia. Voglio invitare i ministri della squadra pastorale a venire qui avanti, a imporre le mani, a pregare individualmente per ogni persona che è venuta e che sta venendo. E mentre vengono e pregano, voglio invitare chiunque altro deve venire, vieni, vieni qui avanti. Non perdere questa occasione per sigillare un momento importante della tua vita, dove ti azioni nell'avere fede. Forza, forza. Alleluia.